Capitolo ventitreesimo. Via, gli argomenti sono su per giù questi che io avrei per difendermi, e forse altri simili. E tosto si sdegnerebbe alcuno di voi se si ricordasse che combattendo per cause di minor momento di questa mia, egli pregò e supplicò i giudici con molte lacrime, menando quassù i suoi piccoli figliuoli, acciò che quelli a grande commiserazione movesse, e molti altri familiari e amici, vedendo che io, ancora che paia essere nello estremo pericolo, non fo nulla di tutto questo. Ciò pensando, e tosto, siccome punto da me, stizzito, con stizza gitterebbe il voto nell'urna. Ora, se alcuno di voi è così disposto, non affermo che sia, se è, mi par che io direi convenevolmente dicendo così a lui: «O ottimo uomo, parenti ho anch'io!» E qui fa quello che dice Omero: «Né di quercia son nato né di pietra, ma di uomini. Parenti ho, e figliuoli, tre, uno giovinetto e due fanciulli. Eppur non menerò quassù niun di loro per pregare che mi assolviate. Ciò non farò io. E perché? Non per orgoglio, o ateniesi, né per disprezzo di voi. Quanto alla morte, se la guardo con coraggio in viso o no, gli è un altro discorso. Ma sì, perché non mi par bello per la reputazione mia e vostra e di tutta la città ciò fare. In quest'età, poi, con il nome che ho, vero o falso che sia, che tutti credono in qualche cosa Socrate essere pur differente dagli altri uomini. Or se così fossero quelli che, o per sapienza o fortezza, o qualsiasi altra virtù paiono segnalarsi tra voi, sarebbe vergogna. E di questi tali, io ne ho veduto tante volte, che pur parevano essere alcunché, far cose da maravigliare, quando li giudicavano i giudici, credendo come avere a patire assai orribil cosa se morivano, come se, non uccidendoli voi, sarebbero stati immortali. Essi, mi pare che alla città facciano vergogna. Sì, che alcun forestiero supporrebbe che quelli segnalati in virtù tra il popolo ateniese, i quali ei presceglie ai magistrati e dagli altri onori, questi niente differiscano dalle donne. Non conviene dunque fare tali cose neanche noi che mostriamo di valere un poco. Né a voi si converrebbe tollerarle se le facessimo. Anzi, dovreste far chiaro che colui condannereste molto più il quale componesse di cotesti pietosi drammi, facendo ridicola la città, che non colui il quale quieto se ne rimanesse. Capitolo ventiquattresimo. E lasciando la reputazione, né mi par giusto il pregare il giudice, né pregando procurar suo scampo, ma sì informare e persuadere lui. Imperocché non per cotesto siede il giudice, per dispensar graziosamente i diritti, ma sì per giudicare di quelli. E giurò egli non di favoreggiare chi a lui paresse, ma sì di sentenziare secondo le leggi. Dunque non conviene né che noi avvezziamo voi a spergiurare, né voi, voi medesimi, che pi non saremmo né voi né noi. Onde non vogliate, o ateniesi, che io faccia cotali cose verso voi, quali né reputo belle, né giuste, né sante. Specialmente io, accusato di impietà per Giove, da questo Meleto qui. Imperocché, egli è manifesto che se persuadessi voi, e con il pregare voi sforzassi, i quali avete giurato, io insegnerei a voi a non credere che ci siano i dii, e proprio in quel che mi difendo di cotesta accusa, mi accuserei da me medesimo che negli dii non credo. Ma no, non è così. Io credo, ateniesi, come niuno dei miei accusatori, e lascio a voi e a Dio che giudichiate di me nel modo che sarà meglio per me e per voi. Fu giudicato colpevole. Capitolo venticinquesimo. Di questo che è avvenuto, che voi, o ateniesi, Mi avete condannato. Per molte ragioni non mi sdegno, specialmente perché mi è giunta non inaspettata la cosa. Anzi, mi maraviglio assai del numero di voti dell'una e dell'altra parte, perché non mi pensava che avesse a essere differenza così poca. Ma sì bene, molta. Ma ora si vede che se soli 30 voti fossero caduti giù nell'altra urna, scampava io. Ma anche così, da Meleto sono scampato. Non pur scampato, ma è manifesto a ognuno che se non fosse montato quassù Anito e Licone, ei dovea pagar 1000 dramme per non aver egli avuto la quinta parte dei voti. Capitolo 26esimo. Colui vuole dunque la mia morte? Sia. Ma che pena mi assegnerò da me, o Ateniesi? È chiaro, quella che merito. E quale pena debbo patire o pagare io, perciò che in mia vita non mi quietai mai dalla voglia di apprendere, perciò che non curando di quel che i più curano, danaro, governo della casa, esser capo di milizia o capo popolo e gli altri maestrati, e non curando delle congiurazioni e sedizioni nella città, giudicandomi di più temperato animo che non si convenisse perché, immischiandomici dentro, salvo rimanessi, là non andai, dove andando non poteva giovar niente né a voi né a me, ma dove poteva fare a ciascuno privatamente il maggior beneficio, là andai, provandomi di persuadere ciascun di voi che non dovesse curare delle sue cose prima che di sé medesimo, acciò che buono divenisse e savio quanto potesse, né delle cose della città prima che della città, e via via a questo modo. Adunque, quale pena merito io se sono così? Non pena, ma premio, se io mi devo assegnare quel che in verità merito, e un premio che mi convenga. E che si conviene a povero e pur benefico uomo, il quale ha bisogno di non intendere ad altro che a confortare voi al bene. Nulla è più che si convenga come l'essere cotale uomo nutricato nel pritaneo. Molto più che se alcun di voi con cavallo o biga o quadriga vinto avesse nei giochi olimpici, impero che quello vi fa parer felici, io vi fo essere. E quello non ha niente bisogno di cibo, io sì. Se mi devo dunque assegnare quel che merito, questo mi assegno, vitto nel pritaneo. Capitolo 27esimo. Dicendo così, vi parrà forse che io dica per quel sentimento medesimo che quando ho detto della commiserazione e supplicazione, per orgoglio. Ma ciò non è, Ateniesi. Piuttosto è che io sono persuaso che mai non ho fatto torto a nessuno volontariamente. Ma di questo non persuado voi, perocché poco tempo è che conversiamo insieme. Che se presso voi fosse una legge, come è presso altre genti, che non si possa giudicare della morte in un solo dì, ma si bene in molti, sareste persuasi, credo. Ora, in sì picciol tempo, non è facil cosa dissipare grandi calunnie. Ma persuaso io di non aver fatto torto a nessuno. Non ho voglia neanche di fare torto a me medesimo e dire contro me che son degno di patire del male e condannarmi da me. E per paura di che? Che non riceva la pena che vuol Meleto, la quale dico, non so se è male né se è bene. E per scegliermi in cambio qualche pena la quale so essere male davvero. E quale? La carcere? E perché devo vivere in carcere, sommesso al sovrastante magistrato, agli undici? Danari, forse? E stare in ceppi insino a che non avrò pagato? Ma gli è il medesimo che la carcere, che danari da pagare non ne ho. Mi condannerò all'esilio, e forse mi condannereste voi a questa pena. Ma dovrei essere accecato dall'amore della mia anima, o Ateniesi, se fossi sì irragionevole che non potessi ragionare così, che se voi, che pure siete miei cittadini, Non siete stati buoni di sopportare la mia conversazione e i miei discorsi, ma vi furono gravi e odiosi tanto che cercate di liberarvene. Come li sopporteranno gli altri? Oh no. E poi la bella vita che farei io a questa età. Tramutarmi sempre d'una città in altra, sempre cacciato via, perché so bene che dovunque vada, se io parlo, mi ascolteranno come qui i giovani. E se non li voglio, essi mi cacceranno via, persuadendo a ciò fare i vecchi. E se li voglio, mi cacceranno via i padri e parenti loro, per cagion di loro. Capitolo 28. Dirà forse alcuno: ma non sei buono, Socrate, di vivere tacendo, stando quieto dopo andatone via da noi? Ma fare intendere ad alcuni di voi questo è la più malagevole cosa, perché se dico che questo è disubbidire all'Iddio e che è impossibile che me ne stia quieto, pensando che io voglia ironeggiare, non mi crederete voi. E se dico che è grandissimo bene a un uomo far ogni dì ragionamenti sulla virtù e quegli argomenti sui quali mi udivate conversare ed esaminare me e gli altri, la vita senza esame è indegna di uomo. Se dico questo, tanto meno mi crederete voi. Eppure così è, come dico, ma non è cosa facile persuadervene. Ma d'altra parte anch'io non mi sono assuefatto a credermi meritevole di alcun male. Onde se avea danari, mi multava in danari quanti ce ne voleva, che non me ne venia a danno. Ma non ne ho, salvo che non mi contentiate di quel tanto che posso pagare io. Una mina d'argento la potrei forse pagare. Dunque io multo me di tanto. Platone, che qui Ateniesi, e Critone, e Critobulo, e Apollodoro vogliono che io mi multi di 30 mine, rimanendo essi mallevadori. Dunque io multo me di tanto. E v'entra mallevadori del denaro questi qui, persone delle quali ci è da fidarsi. Fu condannato a morte. Capitolo 29. Per non aspettare un poco di tempo, voi, Ateniesi, nome avrete e biasimo da coloro che vogliono vituperare la città di avere ucciso Socrate, uomo sapiente. Che mi diranno sapiente, anche se non sono, quelli che vi vogliono fare onta? La cosa vi veniva da sé che io morissi, se aspettavate un poco, perché guardate la età, come già è lontana dalla vita e vicina alla morte. Ciò dico non a tutti voi, ma sia a quelli che hanno votato la mia morte. E a questi stessi dico: credete, o Ateniesi, d'avermi colto di quei cotali argomenti sprovvisto con i quali poteva persuadere voi, se credeva che bisognasse dire e fare di tutto pur di scampare dalla condanna? Oh no, sprovvisto sì, non di argomenti, ma sì di audacia e impudenza, e non disposto niente a parlare in quei tali modi a voi dolcissimi a udire, piangendo e lamentandomi e altre molte cose facendo e dicendo, di me indegne dico, ma quali a udire vi hanno avvezzato gli altri. Ma né allora io credeva che bisognasse far cosa niuna servile per paura del pericolo, né ora mi pento di essermi così difeso. Anzi, più assai volentieri scelgo di essermi difeso in questo modo e morire, che non in quello e vivere. Perché né in tribunale e neanche in guerra non conviene, né a me né ad alcun altro, far di tutto pur di scampare della morte. Perché è certo che molte volte in battaglia uno scamperebbe della morte, o se gittasse le armi, o se verso gli inseguitori egli supplichevole si volgesse, e che ci è nei singoli pericoli molti modi per fuggire la morte, sì veramente che dia il cuore di fare e dire ogni vile cosa. Ma, Ateniesi, badate non sia malagevole non già questo il fuggir la morte, ma sì malagevole più assai il fuggire la malvagità, la quale corre più veloce della morte. E ora io, sì come tardo e vecchio, colto fui da quella che è più tarda. I miei accusatori, sì come più gagliardi e feroci, da quella che è più veloce. E io me ne vado, condannato da voi a essere morto. Costoro, condannati dalla verità a essere malvagi e ingiusti. E io accetto la pena mia, e questi la loro. Doveva forse essere così. E credo che ciascuno ricevuto ha sua misura. Capitolo trentesimo. E ora a voi che m'avete votato contro, voglio vaticinare quel che vi succederà dopo, perché sono già nell'ora che più gli uomini vaticinano essendo presso alla morte. Dico a voi che mi avete ucciso, che tosto caderà sopra voi vendetta, più aspra molto per Giove che non quella che presa avete di me, uccidendomi. Che voi avete fatto questo immaginando liberarvi dal dover rendere ragione di vostra vita. Ma vi succederà tutto il contrario, vi dico, perché accusatori contro voi se ne leveranno più molti, i quali ratteneva io, non accorgendomene voi. E più saranno aspri, e vi inriteranno più quanto più sono giovani. Che se pensate, uccidendo uomini, rattenere alcuno dal rampognare a voi la non diritta via, pensate stoltamente, imperocché non è cotesta liberazione, né possibile per niuno modo, né bella, ma quella è bellissima e molto agevole, che è non in fare impedimento agli altri, ma sì in procurare di rendere quanto si può buoni se medesimi. Dopo questo vaticinio fatto a voi che m'avete votato contro, mi ha commiato da voi. Capitolo trentunesimo. Ma con voi che avete votato l'assoluzione, ragionerei volentieri di una cosa che m'è avvenuta mentre i magistrati d'altro si occupano, e non è peranco l'ora di andare là dove mi aspetta la morte. Rimanete dunque con me questo tempo, che nulla vieta che noi conversiamo insieme, insino a tanto che è lecito, perché io voglio mostrare a voi, come ad amici, che significa mai quello che m'è avvenuto. M'è avvenuto, o giudici, chiamandovi giudici parlo direttamente, una certa cosa maravigliosa, perocché la solita vaticinatrice voce, quella del demone, tutto il tempo innanzi la sentiva io molto frequentemente, contrariandomi pure in piccole cose se io stava per non far bene. Ma ora mi succedono cose come voi stessi vedete, le quali si crederebbero e si credono gli estremi mali. E non di meno, né stamane uscendo di casa mi contrariò il segno dell'Iddio, né salendo qua in tribunale, né mentre difendevami qualunque cosa fossi per dire, benché parlando altre volte, sovente mi fermasse la parola a mezzo. Ma ora, durante questo processo, che facessi o dicessi, non mi contrariò mai. Qual è la cagione, quella che penso io? Ve la dirò. Pare che quel che m'è accaduto sia un bene. E non c'è caso che pensiamo direttamente noi quanti crediamo che il morire sia un male. Una gran prova è che non poteva il solito segno non contrariarmi se io era per far cosa che non fosse buona. Capitolo trentaduesimo. E vediamo per questa altra via d'intendere come c'è da sperare molto che sia un bene, imperciò che morire è una delle due cose, o come non esser nulla, e il morto non ha più niuno sentimento di niuna cosa, o secondo che dicono, è un cotal transito e tramutazione dell'anima di questo luogo qui ad un altro luogo. e se non c'è niuno sentimento, ed è come un sonno allora che dormendo non si vede neanche sogno niuno, sarebbe un guadagno maraviglioso la morte, perciò che io penso che se mai alcuno scegliesse una tal notte, nella quale si fosse addormentato così profondamente che egli neanche veduto avesse alcun sogno, e contrapponendo a quella le altre notti e giorni di sua vita, ed esaminando dovesse poi dire quante notti e giorni passati ha in sua vita meglio e più dolcemente di quella, io penso che non pure un privato uomo, ma altresì il gran re, queste troverebbe facili assai a contare, in comparazione a tutti gli altri giorni e alle altre notti. E se tale è la morte, un guadagno essa è, io dico, imperocché così appare nulla più essere tutto il tempo che una notte. Se poi la morte è come peregrinazione di qua ad un altro luogo, è vero è tutto quel che si dice, che là abitano tutti i morti. Quale maggior bene di questo potrebbe essere mai, o giudici? Imperocché se alcuno, pervenendo nell'Ade, liberatosi di questi che qua si danno nome di giudici, troverà i veri giudici, i quali si dice che anche là giudicano, Minosse, Radamanto, Edeaco e Triptolemo, e tutti gli altri semidei quali in vita loro furono giusti, forse che sarebbe da disprezzare cotale peregrinazione. O al contrario, a qual prezzo non torrebbe qualunque di voi potere conversare con Museo e Orfeo e Esiodo e Omero? Morire molte volte voglio io, se tali cose sono vere. Oh, la conversazione maravigliosa che là sarebbe la mia, quando mi abbattessi in Palamede e agli Aci di Telamone e in alcun altro di quelli antichi morti per ingiusto giudicio. Certo, a paragonare i casi miei ai loro non mi dispiacerebbe, e specialmente, che è il meglio, a passare il tempo esaminando e perscrutando quei di là, come faceva questi di qua, e vedere anche tra quelli chi è savio e chi crede di essere, ma non è. Perocché, quanto non pagherebbe alcuno di voi, o giudici, se interrogare colui potesse che la grande oste menò contro a Troia, o Ulisse, o Sisifo, o tanti altri uomini e donne che potrei nominare io, e ragionare e conversare là con essi ed esaminare. Tale beatitudine sarebbe ella, che forte cosa è a dire. Né mai avviene per cagione di cotesto esame che quelli di là uccidano, perocché, oltre alle altre cose, onde più felici sono quelli di là che questi di qua, quelli sono perpetuamente immortali, se vero è ciò che si dice. Capitolo 33. Ma dovete sperar bene anche voi, o giudici, in cospetto alla morte, e se non altro, credere per vero solo questo, che a colui che è buono non accade male alcuno, né vivo né morto, e che gli dii non trascurano le cose sue. Né quello che a me è avvenuto ora è per caso, perocché chiaro vedo che il morire ed esser liberato dalle brighe del mondo per me era il meglio. Perciò non mi contrariò mai il segno dell'Iddio, e io stesso non sono niente in collera con quelli che m'han votato contro e con gli accusatori, quantunque non con questa intenzione m'avessero votato contro e accusato, ma sebbene credendo farmi del male. E in ciò sono da biasimare. Ma ad essi io mi rivolgo ora, e così li prego. I miei figliuoli, quando saranno giovani, castigateli, o cittadini, tormentandoli come io voi, se vi paiono piuttosto aver cura del danaro o d'altro che della virtù, e se vi paiono voler mostrare d'esser qualche cosa non essendo nulla, svergognateli come io voi, perciò che non curano di quel che devono curare e si credono valere qualche cosa non valendo nulla. Se ciò farete, avremo ricevuto da voi quello che giusto era che ricevessimo, io e miei figliuoli. Ma già ora è di andare, io a morire, voi a vivere. chi di noi andrà a stare meglio. Occulto è a ognuno. Salvo che, addio.